Salve a tutti, io sono Jasmine, questa è Radio Big World e benvenuta ad una nuova puntata di Curiosità Animate, dove vi parlo dei classici Disney. Il classico di cui parleremo oggi è Coda Fratello Orso, del 2003 e considerato 44esimo classico Disney. La trama si svolge nel Canada, fra le tribù indigene e le loro tradizioni. Il protagonista è Kenai, un ragazzino Inuit con due fratelli, Sitka e Denai. Come tradizione, a Kenai viene assegnato il suo animale totem, ovvero un orso, ma la sua tribù ha varie difficoltà con gli orsi. Infatti un giorno vengono attaccati e Sitka, nel tentativo di proteggere il fratello più piccolo, muore. Questo evento fa crescere nel protagonista un forte senso di vendetta e decide quindi di uccidere un orso preso dal dolore e dalla rabbia per la morte del fratello. Uccidendo però il suo animale totem, Kenai attira le ire degli spiriti, specialmente dello spirito di Sitka, che decide di trasformarlo in un orso come punizione. Il protagonista nel processo rimane intrappolato in una trappola per orsi, ma viene salvato da un piccolo orso che passava di lì per caso, ovvero Coda. E fra i due inizia a nascere una profonda amicizia. E infatti il protagonista inizia a cambiare la sua prospettiva nei confronti degli orsi e capisce che gli uomini causano altrettante crudeltà. Decide di dimostrare il suo cambiamento allo spirito del fratello morto, che si trova sulla cima di una montagna. Ma durante il viaggio, Kenai capisce e confessa a Coda che l'orso che aveva ucciso e che ha causato la sua trasformazione era in realtà la madre di Coda. Coda, ferito, scappa, ma decide di ritornare da Kenai per l'affetto e il legame che si era instaurato fra i due. Ma Kenai, arrivato alla cima della montagna, vede arrivare l'altro fratello, che convinto della morte del protagonista, vuole anche lui vendicarsi. I due lottano, ma quando Kenai difende Coda dall'aggressione del fratello, lo spirito di Sitka capisce del suo cambiamento e decide di riportarlo umano. I fratelli si riconciliano, ma Kenai capisce che non può lasciare Coda da solo e prende quindi la coraggiosa decisione di tornare orso per stare insieme al suo nuovo amico, sotto l'approvazione di tutta la tribù degli Inuit, in una nuova pace. Il lungometraggio è stato oggetto di controversie per la sua trama profondamente incentrata sui valori dei nativi americani, dividendo il pubblico. Ma in generale il film ha riscosso molto successo, vincendo anche l'Oscar come miglior film d'animazione nel 2004. Grazie per avermi seguito, io sono Jasmine, questa era Radio Big World e ci vediamo ad una prossima puntata di Curiosità Animate.